Il punto di Stefano Folli. C'è una certa enfasi di troppo nel modo in cui viene presentata l'iniziativa dell'Italia per avere il posto di alto rappresentante della politica estera dell'Unione, posto a cui da tempo Renzi ha destinato la nostra ministra degli esteri Federica Mogherini. L'impressione è che fra poche ore tutto si accomoderà a favore della nostra candidata, visto che gli accordi ci sono e nessuno ha interesse a farli saltare, nessuno dei paesi che contano davvero, a cominciare dalla Germania. Le obiezioni vengono da paesi che alla fine non decidono da soli. Quindi non si tratta di una battaglia all'ultimo sangue come trapela da Palazzo Chigi, dove è curioso che il nome di D'Alema, in alternativa alla candidata ufficiale, si è agitato più che altro come minaccia, il che non è molto dignitoso per l'ex premier ed è indice di nervosismo da parte di chi conduce la trattativa. Sembra che la vera preoccupazione a Roma sia quella di vedere riaffacciarsi un'ipotesi legata a Enrico Letta, nome in teoria gradito a molte cancellerie, Francia in primo luogo, ma su questo il nostro premier deve stare sereno, perché mai qualcuno dovrebbe essere sleale nei suoi confronti?